vomito di circostanza, quanto vomito eleganza, quanto stile il marchio fango, rocker e nell'underground rimango, da come vesto a come testo, sempre di rango, stile panni chic, chic su Vanity Fair Beach, punk strafottenza e no fear, con il tattoo di una stella, da funk interstella, rich rich voglio la più bella, costa troppo, allora anche i soldi vale il doppio, allora do il triplo, stile punk new chic bitch, chic come in Vanity Fair, punk strafottenza e no fear, con il tattoo di una stella, con il tattoo di una stella, tutto questo va, uno per non dimenticare, due non desiderare, tre non arrendermi, quattro non confondermi, 5 per non odiare, 6 per continuare a lottare ad amare, 7 per soffrire, 8 per godere il doppio, 9 per la celebrazione, 10 per la visione, e ancora 1 per lo stile, 2 per la sostanza, 3 per la gloria, 4 per i sogni infranti, 5 per tutti gli arroganti, 6 per valere il doppio, 7 per ogni giorno storto, 8 per ogni solitudine, 9 per vincere l'abitudine, 10 per ogni volta che ho detto no, tutto questo va per lo show, per il flow, tutto questo va per lo show, per il flow, show per il flow, bella come te ce ne vogliono 203, fumi diamanti tra le cartine, Don Perignon nelle cantine, lusso tipo harem, mano al petto e amen, perché t'amo e non t'ho, atto di fede, in mezzo a ste faide per te, coperta di tattoo, Mona Lisa moderna in tutto, inchiostri di stella, tu la più bella, il cielo sa il tuo nome, quando sei con me, il cielo sa il tuo nome, quando sei con me, bella come te ce ne vogliono 103, fumi diamanti tra le cartine, Don Perignon nelle mie cantine, lusso tipo harem, mano al petto e amen, perché t'amo in un torto di fede, in mezzo a ste faide per te, coperta di tattoo, Mona Lisa moderna in tutto, inchiostro di stella, tu la più bella, il cielo sa il tuo nome quando sei con me, il cielo sa il tuo nome quando sei con me, tutto questo va, uno per non dimenticare, due per non desiderare, tre per non arrendermi, quattro per non confondermi, cinque non odiare, sei per continuare a lottare ad amare, sette per soffrire un po', otto per godere il doppio, nove celebrazione, 10 per la visione, ancora 1 per lo stile, 2 per la sostanza, 3 per la gloria, 4 per i sogni infranti, 5 per tutti gli arroganti, 6 per valere il doppio, 7 per ogni giorno storto, 8 per ogni solitudine, 9 per vincere l'abitudine, 10 per ogni volta che ho detto no, tutto questo va per lo show, per il flow, tutto questo va per lo show, per il flow, tutto questo va. per lo show, per il flow, per lo show.